Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà? C'ha bisogno di chiamare Superman. Che mondo sarà? Fa l'effetto del motore che non va. E bentornati Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon che naturalmente in tempi di carnevale si guarda tra una maschera e quell'altra, e certamente il carnevale storico della nostra provincia è quello di San Giovanni in Persiceto, che accompagna carri, stelle filanti e coriandoli anche con queste iniziative legate a Bertoldo, questa figura popolare che in qualche modo è simbolo della critica e dell'irrisione al potere, con tanto di esibizione del lato B davanti a re e prelati. Ogni anno si rinnova il premio della Satira Bertoldo con tante altre iniziative intorno, esposizioni di fumettisti, premiazioni, riconoscimenti. Insomma, per saperne di più, Morena Moretti ha interpellato Giorgio Franzaroli, che è l'anima di questa iniziativa di Bertoldo, che ci descrive un po' le cose che si vedranno sotto il cielo di San Giovanni in Persiceto. Giorgio Franzaroli è il direttore artistico del Premio Internazionale della Satira e dell'Umorismo Bertoldo di San Giovanni Persiceto. Allora Giorgio, buongiorno. Buongiorno Morena e a te e a chi ti ascolta. Ecco, quest'anno, in questa edizione, quali sono le novità di questo Premio Internazionale? Ma le novità stanno sempre negli ospiti e nei premiati e anche in certe sorprese. Hanno a che fare con il territorio, con l'ambito territoriale. Posso già fare delle anticipazioni, perché comunque ho spoilerato un po' di cose sui social. Quest'anno celebreremo Antonietta Bellucci, che non tutti sanno che era l'attrice che impersonava, incarnificava letteralmente la tabaccaia di Anarcorda di Fellini, che è un'icona mondiale, è la classica donna giunonica felliniana, e non tutti sanno che era di San Giovanni in Persiceto, quindi ci siamo ritrovati in questa icona da comunque celebrare giustamente. Sarà ricordata a teatro, dove appunto si svolge il premio, dove si svolge la kermesse. Questo insomma è già prima novità rispetto all'anno scorso. E successivamente poi posso già fare i nomi comunque. Certo. Premieremo il Lino Misto Theatrical, che è un gruppo che negli anni Ottanta ha un po' seguito il solco satirico degli Schiantos, pur aggiungendo anche le nature satiriche sioniste, più conformi un po' con il vissuto dei singoli componenti, anche perché il frontman Filanca, che è il nome di plume di Roberto Grassilli, militava su Cuore, la rivista satirica. Qui sono un gruppo, perché si sono riuniti, un gruppo satirico, un gruppo musicale satirico a tutto tondo. Sarà premiato Fabio Celoni, che è un fumettista che collabora sia con la Disney sia con Sergio Bonelli editore, disegnando Dylan Dog, ma ha fatto questa sua da autore completo, recuperando un soggetto di un film mai fatto con Totò e Aldo Fabrizi, un soggetto di tra gli altri di Cesare Zavattini, su un film sul Don Chisciotte, un soggetto del 1948, un film mai realizzato. Quindi Celoni ha fatto questa ricerca storica molto importante dal punto di vista culturale e storico. Sì, da cui è nata una graphic novel che è reperibile comunque sul mercato. È già uscito per Panini Comics, è uscito il secondo volume nel 2024, quindi noi premiamo Celoni per questa operazione. Ma poi c'è la satira, che è proprio il vostro focus. Certo, ci saranno sementerie artistiche premiati perché hanno riadattato e rappresentato l'Isistrata di Aristofane, recuperando un classico di 2400 anni fa, ma con un messaggio ancora attualissimo. Molto conosciuto, devo dire. Tra l'altro sembra scritto in questi giorni, oggi, sì. Rappresentato oggi, sembra veramente scritto all'impronta, all'istante. E poi avremo un vignettista, perché il vignettista di satira ci vuole in un festival satira, che sarà Beppe Mora. Beppe Mora è un attore che ha una storia già antica, si può dire, su Cuore, su tutti i giornali satirici, ha fondato con Sergio Saviane, che era un grandissimo giornalista, direttore responsabile del Male. Beppe Mora attualmente collabora col Fatto Quotidiano e qui sarà premiato, sarà un premio alla carriera più che altro. E il tutto poi sarà condotta da Andrea Sant'Anastaso, che anche lui è coinvolto vari progetti da lui portati avanti, su Andrea Pazienza, su Fellini, e quindi è praticamente nel suo ambiente, con la regia le grafiche live di Sao Saguatti, che è un artista, un videomaker bolognese che collabora attivamente con me. Tutto questo accade sabato 1 marzo alle 17:30 al Teatro Comunale di San Giovanni in Persiceto. Al Teatro San Francesco, dove si terrà la mostra di David Bachter. E qui però avremo l'inaugurazione, l'inaugurazione anticiperà di qualche giorno l'inizio, quindi sarà il 28 febbraio, si inaugura questa mostra. L'inaugurazione della mostra avverrà il venerdì 28 febbraio, mentre il premio Bertoldo sarà il giorno dopo, sabato 1 marzo. Quindi la mostra è di David Bachter, che è un artista contemporaneo, italiano nonostante il nome, e con opere d'arte davvero originali, molto particolari. Chi è? Adesso io voglio rispettare la sua identità segreta, perché lui fa una rivisitazione dei supereroi anche in chiave personale. David Bachter è un fumettista, ma con delle basi accademiche solidissime, con dei risultati sorprendenti, e lui porta avanti questo progetto di rivisitazione di supereroi nell'ambito della pittura, li reinterpreta in questa chiave distopica ottocentesca, ritraendoli con uno stile che va da Caravaggio al gotico, quindi creando atmosfere tra l'inquietante e celebrativo, perché poi usa la tecnica della pittura a olio con elementi naturali come il tuorlo d'uova, quindi recupera tecniche rinascimentali. Certo, sì. E parallelamente porta avanti, realizza graphic novel, per usare questo termine che va molto in voga adesso, comunque sono fumetti, per chi ancora ragiona come noi vecchiotti, dove omaggia i supereroi americani della Marvel, riconoscendogli questa grande importanza a livello di immaginario che ha avuto su noi che ci siamo formati come adolescenti, bambini negli anni 70, inserendo anche elementi biografici, quindi il valore aggiunto a questa reinterpretazione a fumetti sta anche nel raccontare episodi di quei tempi. Quindi David Bacter, specialmente in tutta quota di supereroi, racconta l'Italia degli anni 70 attraverso gli occhi di lui bambino, mentre appunto legge il fumetto della Marvel e fanno da contrasto un po' a quelli che erano quegli anni. Il titolo infatti è Tutta colpa dei supereroi, sarebbe Tutta colpa dei supereroi quello che siamo diventati. Infatti, anche come influenza seminale. Sulla generazione. Sì, anche come influenza seminale a livello artistico, perché avendo questa tradizione millenaria che abbiamo in Italia, i supereroi, se vuoi, possono essere considerati ammorbanti. Bacter invece riesce a ribaltare completamente questa influenza negativa portando i supereroi nell'ambito dell'arte plastica e nel fumetto, che per certi aspetti dissacra e ribalta una certa retorica americana di cui sono pervasi i fumetti importati dagli Stati Uniti, appunto. Giorgio Franzaroli, io ti ringrazio, diamo di nuovo l'appuntamento per tutti quelli che vorranno venire a vedere questa mostra e anche essere presenti al teatro. La mostra sarà alla Chiesa di San Francesco, fatto soltanto una postilla, Morena, sì? Perché la Chiesa di San Francesco anticamente ospitava il quadro del Guercino del 1600 e rotti, insomma, che poi venne trafugato dai napoleonici, dai francesi, ha avuto varie traversie. Sarà la location della mostra di Bacter, e quando David Bacter ha visto la pala d'altare vuota, si tratta di un sito che misura 2 metri per 4, e gli abbiamo raccontato la storia del Guercino trafugato, rubato, lui ha detto, allora ve lo faccio io un San Francesco. Quindi sarà un evento nell'evento, che sarà appunto l'esposizione di questo quadro monumentale che sta ancora realizzando David, dove reinterpreta il San Francesco del Guercino con tutti quelli che sono poi i suoi dettami arci di fumettista. Quindi sarà una sorpresa, perché ci saranno degli elementi anche dissacranti. La chiesa per fortuna è sconsacrata, comunque sarà un bel impatto visivo. E quindi sarà una bellissima occasione per vedere anche il quadro svelato, sempre venerdì 28 febbraio alle 17:30, mentre il premio Bertoldo, con i premiati, gli ospiti che dicevamo prima, sarà sabato 1 marzo alle 17:30 al Teatro Comunale di San Giovanni in Persiceto. Buono i saggi sbarco foglie e hanno un svelato ormo me e sie a che non mer già cambia ni per a o ni per argi che il dono e gli atton signor poli in paese prezzim regini e utovande cuvene che se lo tenni tenam, che un ottenghe i maestri, cavalli ed altri pulcelli impensabili, ma mai non qui mi zoro vase cautive, che non sai gli abgalli di qua, dell'aria e surindarsi, de cime lei lo castere il mandabile, e per mio il fare gli a tutta c'è cambe di me e non giurato e previ per sacrare. e dal Carnevale di Bertoldo, passiamo invece al workshop di fumetti per aria, quello che il CRAP, il Comitato Ricerca e Associazione Pioniere, assieme a Radio Città Fucico, ha messo in piedi per costruire, in occasione del cinquantenario della nascita della radio, un graphic novel proprio dedicato all'emittente. Non è una storia dalla A alla Z della radio, ci vorrebbe altro che una Trecani dopo 50 anni di attività, ma sono storie emblematiche che con i balloon vengono raccontate da questi ragazzi che frequentano i workshop. Tre di questi ragazzi, Cinzia, Giacomo e Sole, sono stati ospiti della nostra trasmissione Oxospaziale con Stefano e la sua banda. E allora da questa trasmissione prendiamo qualche spunto di intervento dei giovani fumettisti per capire che aria si respira all'interno del workshop. Dopo lo stacchetto musicale, dunque, la parola a loro. Nel volantino c'era scritto che si cercavano persone, un gruppo di persone, per raccontare la storia della radio. Non c'erano grandissimi dettagli poi sul come sarebbe successo, però ho detto mi tuffo. C'era un numero di telefono e... Diciamo che quindi la celebrazione di questi 50 anni di Radio Città Fucico viene fatta, sicuramente ci saranno tanti tipi, certo, di festeggiamenti, però specie stasera parliamo del festeggiamento che avviene con la creazione di un fumetto sulla storia della radio, che viene realizzato attraverso un workshop a cui stanno partecipando questi tre nostri ospiti e ospiti. Così. Io presumo che l'idea di fare un fumetto sia venuta al presidente Alfredo Pasquali, però non saprei. Sì, ci vuole che non lo saprete neanche ci voi. Ci stavano raccontando prima fuori onda che anche Antonella Selva e Cinzia Monari, che è esatto, anche sono, loro che Antonella tra l'altro ci diceva sempre Cinzia che dà un po' anche coordina in sé, cioè spiega come grazie orientarsi alla sua esperienza di fumettista. Esatto, anche perché non siamo tutti esperti disegnatori o comunque non disegniamo tutti da tanto tempo. C'è chi lo fa con tanta passione e ci mette tanto tempo, chi invece è una cosa che vuole fare ma tecnicamente non è tanto preparato. A questo punto lei, dopo aver fatto la parte introduttiva con tutti gli ospiti, ovvero le personalità della radio che raccontano la storia, quindi le storie che noi disegneremo, ci ha dato tutta una serie di informazioni sul disegno, quindi su come si racconta su una tavola, come si divide la tavola, tecnicismi, aspetti narrativi del mezzo del fumetto e anche della sceneggiatura, di come impostarla. Ma facciamo un passo indietro, perché siamo arrivati a parlare del workshop di Antonella Selva, però insomma chiediamo anche a Maria Sole e a Giacomo. Giusto. Come siete venuti in contatto con questa notizia, con questa open call, diciamo così? Allora, io partecipo in quanto tirocinante, quindi una mattina ero lì a disperarmi nel vedere la possibilità di scelta dei tirocini per lettere, che erano tutti molto incentrati su cose tristissime e grigissime e quindi ormai con le mani in testa, pensandomi già in un liceo di provincia con dei puzzoni, ho visto questo workshop che veniva proposto molto bene da Antonella e quindi mi sono candidata. Poi dopo una telefonata con Antonella ho capito subito che era un ambiente veramente molto bello, perché c'è, da come racconta anche Cinzia, si capisce molto il lato democratico e aperto di questo workshop, cioè non ci sono necessità di alcun tipo, chiunque può parteciparvi, qualsiasi età, anche uno che non ha mai preso in mano una penna o che non ha mai letto fumetti. Giacomo, come sei approcciato? Come ho approcciato questo? In realtà io ho la fortuna di conoscere Alfredo, Antonella e l'altra Cinzia, non quella di fianco a me, e dall'anno scorso. Sei un senior tu. Sono un senior, dai, forse, non lo so. Troppa responsabilità, non voglio. E no, l'anno scorso ho partecipato a un altro progetto, un altro workshop, sempre con le stesse meccaniche, quindi di intervista e poi di sviluppo insieme della storia di un altro fumetto che si chiama Volando Basso, che si concentra sulle vite, sulle traiettorie di vita di persone che abitano in Pescarola, che è il quartiere qui vicino. E è stato un progetto che a me è piaciuto molto, anche perché come quasi neo studente di Bologna sono riuscito ad uscire dalle mura bolognesi, che a volte a noi studenti ci limitano un po'. Poi io ho sempre abitato in centro, quindi ancora di più, quindi mi ha fatto conoscere un po' cos'è Bologna al di fuori della vita universitaria e soprattutto mi ha permesso di mettere nel pratico la mia passione per il disegno, per il fumetto, appunto, come accennavo prima. Quindi tu sei un po' un'eccezione, una persona che ama il fumetto, che ha finito a fare un workshop. Stranamente, risposta all'open call sul fumetto, nonostante tu amassi il fumetto. Appena l'ho visto, ho detto bene. Però ho visto che Antonella l'ho conosciuto in università, che stava facendo volantinaggio per questo progetto di Volando Basso, io ne ho approfittato immediatamente. E allora, innanzitutto anche il numero dei partecipanti è stato molto ballerino nei primi periodi, però anche qua bellissimo perché nessuno si è mai posto il problema, cioè si va, si viene, non c'è problema. E ad oggi siamo in 7 a disegnare. Con poi l'aiuto anche di Antonella Selva, che fa tutta una parte, diciamo, della storia di Cornice, e perché, diciamo, ognuno di noi ha scelto una storia tra quelle che abbiamo sentito, che raccontano un po' in maniera molto sparsa la storia della radio, dei personaggi della radio, e quindi il fumetto avrà tanti stili diversi al suo interno. Okay. Che è una cosa un po' particolare comunque. E quindi poi questa cornice di Antonella dà un minimo anche di ordine. Però su una storia lavora solo una mano. Esatto. E infatti, diciamo, ognuno ha scelto quella che era un attimino più affine magari anche ai propri interessi. E anche se è stato difficile, perché durante le interviste eravamo tutti dei bambini con questi occhi spalancati, perché ci abbiamo sentito delle storie assurde che vanno da Genova ai panchettari di Bologna negli anni 80 e tutte cose estremamente belle, e più o meno tutti, se avevamo questa differenza di approccio all'arte, al disegno, tutti non sapevamo niente di Radio Città Fujiko, quindi questo è stato abbastanza democratico, esatto, e è stato molto bello anche per quello. Ma chiediamo alla sola Cinzia, quindi quanti incontri, che durata ha questo workshop e come avvengono questi incontri con le persone che avete intervistato, state intervistando o vi stanno raccontando? Allora, la durata complessiva, diceva, dal famosissimo volantino della Casa del Tortellino, diceva da qui, quindi da ottobre, da Halloween, fino a più o meno maggio. Ecco, una volta alla settimana, 2 ore e mezza circa. È un impegno. Sì. È un impegno. Tutte le settimane, vabbè, saltando Natale, insomma, questa parte qui, giustamente. È durata la parte delle interviste, quindi degli incontri, se non erro 6-7 incontri sono stati. Sì. Perfetto. Poi in realtà le storie non le conoscevamo effettivamente, molte di queste storie, a parte alcune che sono poi passate alla storia, se vogliamo, che poi sono quella della G8, la mia, quella che disegnerò io, quindi la spedizione di pace a Sarajevo. Queste sono balzate un po' agli onori della cronaca, esatto, diciamo sì. Così. Mentre le altre sono storie un pochino più interne, più intime, più personali, proprio relative alla radio, ai personaggi, alle persone che hanno fatto la radio. Ma scrivete anche i testi? Ci hanno aiutato, ecco, questo è un altro punto dove abbiamo ricevuto aiuto, nel senso che Alfredo, a un certo punto, alla fine di tutte le interviste che sono state sbobinate da sole, ha creato un canovaccio, lui ha fatto una traccia, anche perché noi iniziavamo a fare dei disegni, a fare lo storyboard, altra cosa sulla quale Antonella ci ha detto lavoriamo prima sullo storyboard, quindi impostiamo un piano di lavoro, quello che nel cinema sarebbe un organizzare la giornata di lavoro per dire oggi giriamo questa scena, domani quell'altra, se sono nello stesso posto, insomma. Invece in questo caso, appunto, ci ha spiegato lo storyboard di buttarlo lì come disegni abbozzati, però su cosa li potevamo fare, noi ci perdevamo in tantissimi dettagli. Alfredo ha riassunto tutte queste interviste che abbiamo fatto, dopodiché noi stiamo facendo la parte del disegno utilizzando anche quelle battute, quei dialoghi pensati da Alfredo, in alcuni casi mettendoci anche del nostro. Mm-hmm. Però c'è una, diciamo, un canovaccio, una traccia. E siccome lui è il presidente, quello che scrive, quello che dice, io ho potuto modificare qualcosa modestamente. Grande. È molto democratico Alfredo. Direi quasi comunista. ti spingeresti? Mi spingerei quasi a dire questa cosa. Ma, Giacomo, sì. Domanda era, uno, quindi se disegnate anche insieme, oppure se ognuno disegna la sua vicenda, la sua peripezia e poi dopo vengono assemblate insieme i disegni, questa è la mia domanda. Ognuno ha la sua storia, come dicevano prima le altre, ognuno se l'è un po' scelta, appunto in base alle interviste che ci sono piaciute di più o di meno, o comunque ce le siamo distribuiti. Quindi il lavoro sarà principalmente indipendente. Però ad esempio le ultime due riunioni, quello che abbiamo fatto, che secondo me è molto utile, è confrontarci sui nostri storyboard, che come accennava prima Cinzia, è un po' lo scheletro del fumetto, non so come dire, la preview. E quindi ci siamo confrontati in gruppo anche con Antonella, e quindi c'è stato secondo me uno scambio importante, proficuo. Sì, cioè, il fatto è questo: lavoriamo molto indipendentemente, però allo stesso tempo c'è quella dimensione di gruppo che personalmente io ho sentito l'anno scorso come molto utile, di presenza nei giovedì, di vedersi, di riaggiornarsi su come sta andando il lavoro, e che secondo me è proprio il succo del workshop. Quindi un patto col sangue in questo momento per Radio Città Fujiko. Esatto. Non ci restituiranno l'anima finché non avremo dato le tavole. Non avete dato le tavole. No. Che abbiamo detto usciranno nel 2026. Voglio sapere. Anche un po' prima, dai. Secondo me il volume dovrebbe uscire in tempo per essere un regalo di Natale. Ah, è quello l'obiettivo. Ma magari anche prima, sì. Chi lo sa. Quindi già sappiamo cosa regalare per Natale. Quando sono solo in casa, solo devo restare per finire un lavoro, perché il raffreddore c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace ancora di più perché libera la mente. Radio si può scrivere, leggere o cucinare, c'è da stare immobili, utili a guardare, e forse proprio quello che me la fa preferire è che con la radio non si smette di pensare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente. Siamo arrivati allora alla fine della nostra trasmissione. Chi volesse sapere di più del materiale trattato, se volesse anche riascoltare l'intera trasmissione, i siti sono ilpioniere.org o www.radiocittafujiko.it. Ciao a tutti, alla prossima. Oh.